أنا أخوكم أبو قتادة. Basta il suo nome, Abu Qatada, a mettere i brividi addosso all'intero mondo. Lui, il Giordano palestinese, braccio destro di Bin Laden in Europa, è classificato come un individuo estremamente pericoloso. Ma lo stesso tribunale che lo ha bollato così, questa settimana lo ha rilasciato in libertà vigilata. Qatada è uscito dal carcere di massima sicurezza di Long Martin ed è ora agli arresti domiciliari nella sua casa di Acton, ad ovest di Londra, dove riceverà un sussidio di 1.000 sterline al mese. Una decisione che ha mandato su tutte le furie il governo britannico, che dal 2005 ha avviato una crociata contro il terrorismo e sta cercando di estradarlo in Giordania, dove il predicatore estremista islamico è già stato condannato in contumacia per una serie di attentati suicidi avvenuti nel 98 e per aver fornito supporto spirituale e finanziario al terrorismo. Ma la Convenzione europea per i diritti umani vieta il rimpatrio in paesi che praticano la tortura e Qatada non ha alcuna condanna ufficiale nel Regno Unito. He's one of the best connected supporters of Al-Qaeda L'intelligence in the britannica world. rivela che video con i sermoni di Qatada sono stati trovati nell'appartamento degli attentatori suicidi dell'11 settembre. Il ministro dell'interno, Jackie Smith, ha annunciato che presenterà appello alla House of Lords per ribaltare la sentenza. Intanto, però, Qatada potrà uscire di casa 2 ore al giorno, niente cellulare o computer e su di lui pesanti restrizioni, come il divieto di recarsi alla moschea o comunicare con una lista di persone, tra cui lo stesso Osama Bin Laden. Giorgia Scaturro, GR24, Il Sole 24 Ore, Londra.